Io sono un essere umano che si chiama Alessio e sono presente qua a questa fiera dell'arte con un progetto di cui faccio parte, che è un'associazione culturale che si chiama Interzona, che opera nella stessa città in cui c'è questa fiera, che è Verona, da 19 anni. E niente, siamo qua sostanzialmente a. Non dico presentarci perché in realtà non ci interessa presentarci in una fiera dell'arte, ma di creare uno spunto e una situazione collettiva, visto che la nostra, cioè la nostra realtà quotidiana è quella di creare una partecipazione e un lavoro collettivo. E abbiamo cercato di creare la stessa cosa qua, infatti anche il nostro stand, il nostro spazio, il nostro angoletto cerca di lavorare un po' in questo senso, di creare una sorta di interattività anche con la gente che passa qua dentro e che potrebbe avere un minimo di interesse verso la collettività. Come prerogativa del nostro spazio, del nostro progetto, in realtà noi produciamo eventi d'arte in qualsiasi forma, insomma, quindi in realtà dai concerti a spettacoli di teatro di ricerca, abbiamo fatto esposizioni d'arte visiva, abbiamo fatto conferenze o comunque incontri con artisti sull'arte visiva e stiamo tentando con tutte le nostre forze di cercare di fare diventare il nostro spazio anche un'area o comunque un centro per le residenze d'artista, anche perché comunque Interzona fa parte di un network di centri culturali europei che si chiama Trans-Europols, e quindi all'interno di questa ennesima moltitudine cioè, si cerca una forza di questo network di centri, è quello di creare anche progetti comuni per poi farli influenzare anche nelle varie situazioni, nelle varie aree. E quindi sono già dei centri che lavorano in questo senso come residenze d'artista e è un sogno, insomma, che avremmo anche noi, sarebbe riuscire a dare anche il sostegno di un nostro posto qua, insomma, visto che comunque potenzialmente lo spazio ha le prerogative di poterlo fare. Ovviamente da lì poi ne derivano tutte le difficoltà a livello economico che comunque noi affrontiamo sempre tutti i giorni, visto che comunque essendo un'associazione culturale indipendente, abbiamo sempre vissuto di una nostra economia, insomma, quindi non potendo godere nessun finanziamento pubblico, insomma. Penso che le nicchie che si sono costruite le proprie nicchie per vivere, in qualche maniera siano diventate uno spazio stretto a cui tanti piace stare, ma oppure piace. È una sorta di interesse collettivo che non so se si possa descrivere o categorizzare come una moda. E non so neanche se sia corretto parlare in questi termini, perché comunque sia, credo anche che più visibilità c'è per le realtà veramente interessanti che in qualche maniera fanno ricerca, al di là di quello che sia il suo territorio d'azione o che sia i desideri o i sogni che in realtà vogliono costruire all'interno delle loro esperienze, credo che sia comunque, di base non lo reputo un fattore negativo, però ovviamente questo ha come un colpo di coda, cioè nel senso fa in modo che nel momento in cui queste realtà si aprono, comunque diventano più fruibili, diventano da un certo punto di vista anche più consumabili. E quindi ci stanno tutti i punti negativi all'interno di una cosa che sia veramente consumabile. In realtà penso che qualsiasi cosa possa essere arte contemporanea, almeno per il mio punto di vista, cioè non c'è uno statuto dell'arte. Non c'è un perimetro alle quali all'interno qualcosa sia arte o non lo sia, o piuttosto che qualcos'altro. Infatti la grande potenzialità che hanno i linguaggi molteplici dell'arte negli ultimi anni, insomma, negli ultimi decenni, sta proprio a sottolineare questo, insomma. Che questo crei. Vabbè, è un altro discorso, però che questo crei una sorta di, come dire, spaesamento, non capacità del pubblico di poter interagire fino a tutti, cioè esattamente fino alla fine del linguaggio che veramente si vuole utilizzare all'interno di un certo contesto, questo può essere vero, però non lo considero un limite, lo considero un arricchimento, un'offerta. Insomma, quindi anche di per sé anche la radio è un sistema, è un mezzo, un medium, insomma, non so. Sì, lo reputo arte, sì. Perché no? Questo è un po' il leitmotiv che abbiamo cercato di usare anche nell'approccio estetico del nostro spazio qua dentro. Era proprio quello di riuscire a lavorare sul valore e interagire con la gente sul valore della collaborazione, della collettività. All'interno di, cioè, nelle sue molteplici, come dire, interpretazioni, anche come necessità, come urgenza, come valore, come Perché la nostra esperienza è questa, cioè come associazione è questa. L'ennesima potenza, il valore che si crea nel fatto di creare una moltitudine, che è creata da... e che fa quindi una potenza. Un insieme di singoli che in qualche maniera, nell'estremo valore che ha ogni singola personalità, crea una moltitudine che in realtà è notevolmente potenziata da quello che poi effettivamente è il lavoro che si fa alla base. E quindi anche tutte le sorte di lavoro di parte interattiva che c'è nel nostro stand con le persone che proprio passano, sta a sottolineare questo, a fare in modo che anche la singolarità della persona che passa venga sottolineata. Quindi anche le domande a cui tu hai anche risposto in realtà non dovrebbero essere vincolanti, ma dovrebbero essere una sorta di apertura, non so come. Non vogliamo porre nessun tipo di vincolo in questo, quindi sta un po' anche alla volontà del soggetto, insomma, di voler buttarsi dentro. Quel puzzle lì, cioè, ci abbiamo messo, per dire, arrivare allo stato che stai finendo, ci abbiamo messo 2 giorni e mezzo, per dire. C'è una prima parete che è quella che ovviamente impressiona un po' di più, che è costituita da questo frame visivo dove sostanzialmente esistono dei pezzi di un puzzle, appunto, che in qualche maniera valorizza il lavoro collettivo, nel senso che più persone partecipano a questa cosa, in meno tempo riesce ad arrivare a una soluzione e in qualche maniera riesce ad arrivare a un target, che è quello di costruire la frase che poi effettivamente noi abbiamo scelto alla luce dei nostri 20 anni di esperienza assieme. E dall'altra parte del muro, cioè quindi sul muro che si affianca a questa prima attività, invece c'è una serie di domande. In realtà ce n'erano molte di più, erano molto più complesse, se si vuole, forse per una sorta di semplicità di linguaggio siamo arrivati a trovarne solamente alcune, di un magma, diciamo, molto più ampio. Però sono domande che in qualche maniera vanno a chiedere a un singolo, in questo caso, perché ovviamente si risponde singolarmente a queste domande. Anche qua puoi rispondere a tutte, ne vuoi rispondere a una sola, quello che vuoi. Sta a valorizzare la singolarità, quindi da una parte c'è la valorizzazione del singolo, e dall'altra parte c'è, come dire, un chiaro esempio di lavoro collettivo che serve ad arrivare a un risultato. Certo. L'importante è farsi le domande giuste, quello sempre, comunque di base, saper rispondere forse anche alle domande in qualche modo, almeno dal punto di vista personale. Ma trovare anche un valore nella cooperazione, cioè comunque nel fatto di perseguire degli intenti e trovare anche il valore di farlo con gli altri. Non c'è niente di cattolico qua dentro, eh. È un lavoro, come dire, che va sullo stesso binario, però in parallelo, di una performance che ci sarà oggi alle 5, questo designer e artista italiana che è Livia Rossi, che fa tutti i lavori che anche lei valorizzano proprio la sfera del collettivo. Cioè, quindi lei crea tutti i lavori di design, ovviamente, che chiedono prima di tutto una partecipazione personale a questa cosa, quindi anche in questo caso una interattività, e ci troviamo un legame in questo senso, ma collettiva. Quindi crea questo escamotage dove ci sono dei palloncini che devono essere gonfiati in tre contemporaneamente, quindi con tre ingressi, che sembra una stupidata, una roba buona e molto banale, invece è una cosa molto complessa. Chiede una sincronia di respiro, chiede, come dire, appunto, una sincronizzazione, anche crea una specie di collettività istantanea anche con persone che non si sono mai viste prima e che in realtà si trovano a fare una cosa molto. Ci sono altri espedienti che in realtà saranno installati anche stasera nel nostro spazio, perché stasera ci sarà la prima data di un progetto molto più largo che comunque riguarda anche sul design con l'ecosostenibilità nell'arte, un altro discorso, un tema che ci sta molto a cuore. E quindi starà altri lavori tipo il tavolo da ping pong con racchette con due manici. Quindi sostanzialmente si gioca in quattro, ma in realtà si gioca in due. Oppure un workshop che terrà Slow Food, sempre questa sera, anche lì sull'ecosostenibilità, anche nell'approccio alimentare delle cose, però abbinata sempre con Livia a un'altra performance che riguarda invece il fatto di mangiare insieme. Cioè con una forchetta, però che in realtà ha un'estensione che ha due imbocchi. Quindi sostanzialmente se io sto mangiando in questa forchetta ti imbocco anche a te.